consultazioni poetiche al telefono dal 2 novembre al 19 dicembre 2020. Mattia, ben trovato. Buon pomeriggio. Ci racconti di questa iniziativa? Che è un'iniziativa presa dal Teatro della Pergola di Firenze in partenariato col Teatro della Ville di Parigi. Quindi diciamo è un'iniziativa anche di gemellaggio tra queste due istituzioni che è nata durante il primo lockdown. Cioè, in realtà le consultazioni poetiche esistevano già in Francia da prima, però col fatto del lockdown hanno deciso di farle per via telefonica. E quindi fondamentalmente è un modo di arrivare comunque a quelle persone che in un modo o nell'altro prima avevano rapporti con il teatro o comunque tutte quelle persone che hanno bisogno di raggiungere in qualche modo la bellezza pur stando confinate in casa. Quindi diciamo un'iniziativa che il teatro ha offerto alla popolazione, un'iniziativa di vicinanza, di portare ancora un po' di bellezza nelle case delle persone dal momento che le persone non possono venire fisicamente a teatro. Come si struttura? Le persone si iscrivono sul sito del Teatro della Ville. Da lì vengono indirizzate a seconda del loro paese di provenienza, della lingua in cui parlano, vengono indirizzate a prenotarsi. Noi le contattiamo e ci facciamo una chiacchierata per capire qual è il loro stato d'animo, come stanno, in che situazione vivono, eccetera, eccetera. E tutto questo ci aiuta poi a scegliere da un nostro ricettario poetico una poesia o più poesie che vogliamo donare loro. Sono tante situazioni diverse, a volte serve per alleviare una situazione pesante, a volte serve semplicemente per regalare un sorriso o prospettive nuove sul momento che stanno vivendo. Quanti sono gli attori e le attrici coinvolte? Siamo 6 attori coinvolti. Dopodiché adesso è possibile prenotarsi, è attivo un nuovo servizio che inizierà a affiancare le consultazioni poetiche, che sono le consultazioni musicali. Quindi sarà possibile fare anche le consultazioni musicali, che sulla falsa riga delle consultazioni poetiche, invece delle poesie, regaleranno alle persone che si iscrivono delle canzoni, della musica. Quindi anche noi attori verremo diciamo affiancati da dei musicisti, da dei cantautori che faranno queste consultazioni musicali, e quindi sarà possibile ampliare ancora di più, diciamo, la gamma delle possibilità. Ogni singolo contatto, l'interpretazione quanto dura? Di solito vanno intorno ai 20 minuti, poi ci sono quelle che magari durano 15, 17 e quelle che magari durano 25, comunque mai più di 25 minuti, perché comunque quello è il tempo giusto per raggiungere un contatto con l'altra persona e riuscire a comprendere un po' il suo mondo senza essere troppo invadenti. La selezione dei testi? Quando abbiamo iniziato questo progetto ci siamo confrontati tra noi attori e con il teatro e abbiamo messo insieme una raccolta, diciamo, con le proposte di ognuno di noi, una raccolta di poesie che fosse il più possibile vasta in modo da poter veramente andare a toccare tutti i temi che potevamo incontrare poi all'interno delle consultazioni. Poi abbiamo fatto una specie di ricettario che man mano abbiamo ampliato nel corso del tempo, nel corso dell'esperienza delle consultazioni, perché magari durante una consultazione ci veniva in mente qualcosa di nuovo che non era nel ricettario e che poi abbiamo aggiunto al calderone, diciamo. Che giorni e quali orari? Tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 17 alle 19, ci si può prenotare sul sito ogni mezz'ora, quindi 17, 17.30, 18, 18.30, e anche le consultazioni musicali si svolgeranno con lo stesso principio, inizialmente 2 giorni alla settimana, poi probabilmente verranno intensificate, diciamo. Ci ricordi tutti i riferimenti web? Sicuramente trovate tutto sul sito del Teatro della Pergola di Firenze, che poi vi rimanda al sito del Teatro della Ville, dove è possibile fare le prenotazioni. Quindi dal sito internet della Pergola, come anche dalla pagina Facebook, è possibile trovare i riferimenti per poi prenotarsi. Consultazioni poetiche al telefono dal 2 novembre al 19 dicembre 2020. Un saluto e un ringraziamento a Mattia Braghero del Teatro della Pergola che ci ha presentato l'iniziativa. Mattia, un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Viva il lupo, a presto, ciao. Con Simona Banchi di Officina delle Arti Pierpaolo Pasolini per presentare direttamente Officina Pasolini a casa tua da giovedì 19 novembre 2020. Simona, ben trovata. Ciao Federico, ben trovati a voi e a tutti gli ascoltatori del tuo bel programma. Questa iniziativa come nasce, come si articola? Durante il lockdown abbiamo mandato avanti tutte le attività della nostra hub culturale, non potendo usufruire del teatro abbiamo fatto un'Insta Hub, e quindi in memoria di questa bellissima esperienza in cui tutti gli artisti che sono stati i nostri ospiti si sono prestati a fare delle dirette con noi su Instagram, abbiamo voluto ripercorrere un po' quell'esperienza e dare anche al nostro pubblico la sensazione di poter stare di nuovo con noi in teatro. E quindi ci siamo spostati sulla nostra pagina Facebook, ospitando degli eventi, degli incontri, dei concerti in teatro a porte chiuse, però trasmesse in streaming sulla pagina Facebook di Officina Pasolini. Alcuni eventi li abbiamo congelati, rimandandoli a tempi migliori, quando potremo avere il pubblico. Altri però ci è sembrato interessante poterli proporre anche in questa formula mista, una simulazione teatrale per un pubblico a casa. È un esperimento per noi. Abbiamo già sperimentato su Instagram e devo dirti che è andato molto bene, però questo è un upgrade rispetto alla semplice diretta di Instagram. In realtà è un vero e proprio spettacolo, un vero e proprio incontro che si può seguire in streaming, come tanto sta andando un po' di moda adesso, visto che anche tutti i festival di cinema stanno offrendo il pacchetto di visione in streaming, ad esempio. D'altronde come una diretta televisiva senza pubblico. Esatto, esatto. Alla fine la televisione vince. Ha vinto. Comunque iniziamo giovedì alle 21 sul palco del nostro teatro Edoardo De Filippo. Abbiamo il cantautore portoghese Salvador Sobral, che insieme a Tosca e a Max Tommasi presenterà il suo ultimo album Paris, e quindi è un concerto vero e proprio, insomma, con questo artista che noi in Italia conosciamo soprattutto perché vinse l'Eurovision Song Contest nel 2017, mi sembra. Gli eventi più o meno che cadenza avranno? Al momento per il mese di novembre ne abbiamo di molto ravvicinati, non siamo riusciti a fare una programmazione che abbia una quotidianità o una cadenza settimanale o dei giorni specifici, perché in realtà ovviamente siamo sempre un po' a disposizione anche degli artisti, non si maneggia denaro, quindi come gli eventi erano gratuiti per il pubblico che veniva a vederli dal vivo, anche gli eventi su Facebook saranno gratuiti, e quindi ovviamente noi sempre siamo legati alla disponibilità degli artisti perché facciamo con loro scambi culturali, residenze, quando almeno quando era possibile. Quindi siamo riusciti a prendere Sobral perché doveva fare un evento all'auditorio, ma è passato anche da noi, e quindi è giovedì alle 21 e venerdì, quindi il giorno dopo, ci sarà Cristina Zavalloni con Manuel Magrini in concerto, anche lei era credo di passaggio a Roma, quindi per questo credo che sia una bella chicca per gli appassionati, insomma un interessante pianista molto giovane che insomma ha suonato anche a New York. Quali saranno le discipline artistiche coinvolte? Vediamo sempre un po' tutto alle tre sezioni della scuola Officina Pasolini, del nostro laboratorio di alta formazione, quindi la parte legata alla canzone a Tiziana, a Tosca, quindi concerti, musica, cantanti, cantautori, presentazioni di dischi, la parte legata al teatro, quindi la sezione teatrale che è diretta da Massimo Venturiello, e poi la parte più audiovisiva, cinematografica, legata al mio percorso di multimediale. Proprio la settimana scorsa si è chiuso il bando, abbiamo avuto, nonostante il Covid, un'ottima risposta da parte dei ragazzi che si sono iscritti per l'anno prossimo, e speriamo che insomma a gennaio, quando inizieremo le lezioni, potremo veramente farle in presenza. Ci tengo anche a segnalarvi due incontri, tutte e due moderati da Gino Castaldo, e legati un po' a quello che è la mia sezione audiovisivo. Anche qui vedi c'è una molta contaminazione, perché Gino Castaldo, che tutti noi conosciamo, giornalista musicale per lo più, presentatore, conduttore, critico, intervisterà il cantautore Renzo Rubino, nell'occasione il documentario che si chiama Porto Rubino, storie, canzoni e lupi di mare. In questa chiacchierata che Castaldo farà con Rubino si vedranno delle clip di questo documentario che penso che sia in onda a disposizione su Sky Arte. Non sono proprio sicura. Mentre sempre Gino, il 3 dicembre, farà una chiacchierata con Francesco Bruni, regista che è appena reduce dall'uscita del suo film Cosa sarà, che è stato presentato all'ultima festa del cinema di Roma. Per tutte le informazioni, chiaramente c'è il vostro sito internet. Le informazioni, il nostro sito officinapasolini.it, la nostra pagina Facebook Officina Pasolini, anzi proprio direttamente /officinapasolini, la nostra pagina Instagram, insomma sui social penso che siamo piuttosto attivi. E invito te e tutti gli ascoltatori ad avere un po' di tempo per seguire i nostri eventi. Mi ha fatto molto piacere essere di nuovo a vostra ospite e speriamo che potremo fare una bella cosa insieme dal vivo l'anno prossimo. Perché no? Direttamente Officina Pasolini a casa tua, da giovedì 19 novembre 2020, un saluto e un ringraziamento ad una delle curatrici, Simona Banchi. Un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Grazie Federico, ciao, buona serata. Con Alessandra Ferraro di Margine Operativo per presentare la quarta edizione del progetto multidisciplinare Ai confini dell'arte dal 13 novembre al 13 dicembre 2020 online. Alessandra, ben trovata. Grazie, ciao, buongiorno. Raccontaci. Ai confini dell'arte è un progetto che esiste, appunto questa quarta edizione, è iniziato il suo percorso 3 anni fa, questo è il quarto anno ed è un progetto dedicato principalmente la processualità artistica, presenta workshop ed eventi artistici dedicati alle performance art e quest'anno abbiamo fotografi, fumetti, musica, storytelling, video, oltre che c'è una sezione dedicata alla danza e al teatro fisico. La particolarità dell'edizione di quest'anno è che Confine dell'Arte abita lo spazio digitale. Chiaramente, essendo un progetto che iniziava il 13 novembre e abbiamo dovuto confrontarci a questa situazione di lockdown progressivo, e la scelta è stata quella di fare un esodo per tutto il progetto nello spazio, diciamo, digitale. Quindi sia i workshop di formazione, quanto ci sono 6 workshop che iniziano dal 13 novembre, dedicati appunto uno ai fumetti, uno alla street photography, uno al rap, uno al storytelling digitale, uno al video e uno alla danza. Tutti questi 6 workshop stanno in una modalità online, e anche gli eventi artistici, che sono un momento in cui c'è una, diciamo, una restituzione, anche una presentazione dei lavori, quello che si è costruito, prodotto all'interno dei workshop e con dei focus anche sui linguaggi artistici, diciamo, del contemporaneo, anche questi sono fruibili per gli spettatori in streaming. Ora, diciamo che è una grande sperimentazione per noi con Margine Operativo, chiaramente è la prima volta che ci confrontiamo con un progetto che vive completamente e abita solo lo spazio digitale. È una sperimentazione anche estremamente interessante, quindi per noi diventa anche un'espansione di luoghi possibili in cui far avvenire gli accadimenti artistici, in cui proporre le performance art. Chiaro, con queste tempistiche così veloci, tutto quello che potrebbe essere anche ragionato maggiormente diventa un po' tutto in velocità, diciamo, è il tempo presente che ha determinato una velocizzazione di una sperimentazione che è estremamente interessante, continuo a dire, ma chiaramente forse va bisogno di una tempistica più, un respiro maggiore. Siamo pronti a partire il 13, tra l'altro vi invito, chi è interessato, a seguirci su Facebook, faremo una diretta di presentazione dei workshop, che è il primo step del progetto, con tutti gli artisti che li curano, quindi per i fumetti Alessio Spataro, per il rap Mietanta, per il storytelling, un progetto molto interessante curato da Spettatori Migranti, Attori Sociali e da Luca Lotano, il video curato da Margine Operativo, la street photography da Carolina Farì, e invece per la danza e il teatro fisico il workshop è curato da Francesca Lombardo e Lidia Porzio. Diciamo, questa prima parte del progetto viene presentata con un evento pubblico che potete vedere sia sul Facebook di Margine Operativo, sia da Biblioteca Interculturale Cittadina del Mondo e dal Centro Giovanile Batti il Tuo Tempo Evolution, nei due luoghi dove dovevano venire in presenza i workshop, ma che ci ospitano sui loro canali digitali in questa dimensione appunto virtuale. E abbiamo riformattato tutti i laboratori insieme agli artisti coinvolti, pensando in una dimensione, diciamo, di aula virtuale, di spazio digitale. Credo che saranno comunque molto interessanti e accattivanti, e appunto invitiamo chi è interessato a vivere questa sperimentazione con noi. C'è un sito del progetto che è marginoperativo.com/ai confini dell'arte, e poi sui nostri canali social trovate tutte le informazioni, quindi chi è interessato può trovare tutte le informazioni. Tutti i workshop sono gratuiti, sono rivolti agli under 30, questo è il target di Ai Confini dell'Arte per la parte, diciamo, di formazione, però bisogna iscriversi, quindi insomma, trovate le nostre mail di riferimento, le modalità di iscrizione sui nostri canali. Quarta edizione di Ai Confini dell'Arte online dal 13 novembre al 13 dicembre 2020. Un saluto e un ringraziamento ad Alessandra Ferraro di Margine Operativo. Un abbraccio, in bocca al lupo e alla prossima! Grazie! Grazie, tanti saluti a tutti e anche a te, chiaramente. Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.